Rosso, Antonella. Dimmi, Maria Antonia. Antonella, che cosa c'è da mangiare per questo signore? Perché, Maria Antonia, dove sono i pasti? Non ne sono arrivati i pasti. Sono arrivati, ma sono dentro. Ah, allora, aspetta che controllo se c'è qualcosa. Sono al limite e chiedo se vuole un caffè là. Perché, cioè, credo che abbiano portato tutto dentro. Adesso controllo, poi ti richiamo. Antonella? Antonella? Dimmi, Maria Antonia. Chiedi a Maria Giovanna dove sono i pasti, se ce ne sono avanzati. Sai che la cerco, che non so dove. Maria Antonia, niente, non è avanzato nulla. Aspetta che chiedo al paziente che cosa vuole. Non c'è niente da mangiare. Sì, ma chiedo al paziente se vuole il caffè e latte. Ok. Anto? Antonella? Dimmi, Maria Antonia. Allora, se le fate un caffè latte con le fette biscottate e poi lui dovrebbe avere nella sua valigia una banana che gli ha portato il figlio. Ok. Poi ce lo portate da questa parte? Va bene. Ragazze, prima di cambiarvi, ridate uno sguardo a pressione e saturazione di Garau, ok? Mi sentite? Sì. Mi avete sentito, ripeto? Ripeti. Ok, perfetto. Non ti sento. Dicevo, prima di uscire, riguardate una saturazione e una pressione di Garau. Ok. Mi passa Antonella? Subito. Dimmi, Maria Antonia. Stiamo cambiando la numerazione, cioè non è che la stiamo cambiando, però quel signore è a letto perché c'era una stanza chiusa, anche quella era da numerare. La stanza chiusa era quella 15-16 dove i letti non sono fatti. Sì, vabbè, però comunque vanno messi nella numerazione, sono perché la signora nuova è a letto 9, quindi c'è 9-10 in questa stanza, poi c'è la stanza 11-12. E poi quel signore quindi al 13, perché poi ci sono... Esatto, così come stai dicendo. No, quindi adesso il signore, bisogna scriverlo, è a letto 20, signor Sanna. Scusa, Antonio, è a letto 13. Anto, mi senti? Sì, dimmi. Signor Sanna è a letto 13. Sì, bene. Antonella? Antonella? Sì, Mari? Mari? Sì, Antonella. Allora, signor Donedu vorrebbe delle gocce di Rivotril che è a lui, però le serve, cioè gli serve il bicchiere, puoi chiedere se le può prendere e casomai mandarvi il bicchiere? Sì, adesso chiedo. Sì. Allora, ci devi dire se può prendere le gocce... Sì, l'ho già visto. Anto? Dimmi. Dimmi, Maria Antonia. Ascolta, allora, la pressione è 171-88. Anto, ti dico i parametri di questo paziente, del signor Garau. Dimmi. C'è 171-88 di pressione, 100 di frequenza, però c'è un'incongruenza con i due saturimetri, perché un saturimetro mi dà 97 di saturazione e l'altro mi dà 83. Chiede la dottoressa se è marezzato. Molto, molto. Secondo te è da aspirare? Secondo me no, però non ho capito l'ossigeno, io non riesco a capire questo ossigeno perché io non vedo, cioè non riesco a vederlo. A quanto deve andare? A 15. Ma e tu riesci a vedere la pallina dell'ossigeno qua? Al massimo dovrebbe essere l'ossigeno, Maria Antonia. Anto? Dimmi. Allora, allora non riusciamo a capire a quant'è l'ossigeno. Prova a chiuderlo e a riaprirlo. Ci stiamo provando. Ok, Antonella, adesso si è mossa, era praticamente tutta completamente su. Quindi 15 litri. Deve rimanere così, deve rimanere al massimo, A 15. A 15 deve rimanere. E a 15. Sta saturando 91 nel monitor e vabbè 97 con quello saturimetro a dito, diciamo. E il monitor invece? Adesso è 92. Sta salendo il numero adesso, 93, sicuramente lui non ha l'ossigeno, era staccato l'ossigeno. Era attaccato? Sì, l'ho riattaccato io. Non sento. Anto, se non ci sono altre cose noi usciamo. Antonella. Sì, ok. Se non ci sono altre cose noi usciamo. Potete uscire. Ok. Tutto bene? Entra Claudio, lo mettete assieme. 19 e 20 vanno bene, 13 e 14 e 15 dormono, non c'era nulla di particolare da controllare, vero? No. Anche 5 e 6 stanno bene. Chi c'è fuori? Fuori chi c'è? Ok, la signora Altana ha attaccato, tutto bene. Attaccata adesso? Sì, perché c'era un po' di problemi con, la, con l'accesso venoso. Ok, cambio l'orario. Ok. Va bene, allora sto uscendo. Ok. Aspetta un attimo che sto prendendo il foglio di diario medico. Sono pronto, chi è? Dimmi. Allora, Nurra, 130 su 86 di pressione. Ah? 98% di saturazione in aria ambiente. 36 di temperatura. E 88 battiti sinusale. Ok, scritto. Davide, poi ti devo chiedere un'altra cortesia, se potresti chiamare la rianimazione nostra per avvisare che dovremmo mandare un emogas dal percorso, dall'area rossa, diciamo, dal percorso, cioè un emogas, cioè, non so se è positivo. Ascolta, ma non conviene che aspettiamo che ti ricovinano pure quell'altro, così li mandiamo insieme? Sì, sì, però iniziamo a chiedere a loro come sono messi, perché noi gli vorremmo inviare questo emogas.